Sempre Radio Popolare, questo è Rimandati a settembre che sta per cominciare. In studio come sempre Roberto Caselli e Paolo Magliocco. Eccoci qua. Buongiorno. Con un nuovo ospite, con un nuovo ospite. A te l'onore, Paolo. E oggi il nostro ospite è Lucio Rossi. Lucio Rossi, fisico delle particelle, ma un fisico delle particelle un po' particolare. Lui non è di quelli che studiano la teoria, lui è di quelli che fanno gli esperimenti. Eh sì, è un uomo cacciavite. Ben arrivato, Lucio. Grazie, grazie a voi. Saluto tutti. Dunque, Lucio Rossi, fisico sperimentale, responsabile al CERN del progetto del potenziamento dell'acceleratore LHC. Quindi diciamo che è una delle persone più potenti nel far funzionare l'acceleratore del CERN LHC, che è il più grande acceleratore del mondo, che è l'acceleratore dove è stato visto, dove è stato scoperto il bosone di Higgs e dove si stanno facendo tante cose ancora di più. E queste cose si stanno facendo grazie all'aiuto di Lucio Rossi, che lo rende sempre più potente ed efficiente. Allora, Lucio Rossi, ci devi subito dire qual è stata l'emozione per la scoperta appunto di questa particella straordinaria, che è il bosone di Higgs, appunto, quella che dà la massa, no, alla materia sostanzialmente. Beh, l'emozione è stata grande, perché dovete capire che questa è stata una caccia per 40 anni. Ci sono stati fatti 3 acceleratori per trovare il bosone di Higgs. L'LHC doveva trovarlo, altrimenti avremmo detto non esiste, dobbiamo fare una nuova teoria. E qualcuno diceva sarebbe stato meglio. Io poi gli dicevo spiega a mia madre che ha pagato le tasse per scoprire che non c'era. Molto meglio averle detto guarda che c'è. Comunque, quindi è stata emozione, perché non è stato solo l'LHC, bisogna riconoscerlo, è lo sforzo di una comunità. Qui bisogna... Quegli acceleratori, dico, sono un po' le nuove cattedrali, almeno queste costruzioni scientifiche. Durano 30 anni, eccetera, vanno oltre una generazione. Il progetto di cui parleremo dopo, che io dirigo, io non lo vedrò a finire. So già che sarò in pensione, ma non ha importanza. Io ho completato l'LHC senza averlo iniziato, quindi quello che importa è veramente il lavoro di una comunità, si potrebbe dire di un popolo, visto appunto che siamo arrivati di più popoli. Di più popoli, tra l'altro, sì. Qui, ma del popolo o dell'umanità. Io amo sempre non sottolineare troppo differenze di nazionalità, anche se ci sono, la cultura è giù. Ecco, le differenze di cultura mi piace sottolineare. Di naturalità meno, però appunto di più popoli è il popolo della comunità scientifica, un popolo sui generis che si riconosce come parte di una comunità, e quindi il bosone è stato un po' il coronamento del popolo, lo sforzo di questo popolo. Senti, diciamo. Diamo qualche numero proprio, la lunghezza per esempio dell'acceleratore, che è una cosa... sono 27 chilometri. Io venendo qui da Ginevra, che ieri sera ogni volta faccio il bianco, il tunnel del Monte Bianco, e sono 11,6 km, quindi andare e tornare è meno del mio acceleratore. Che è tutto sottoterra. Che è tutto sottoterra, 100 metri sottoterra, sì, nella zona di Ginevra, tra Ginevra e la Francia. Perché è importante che sia sottoterra? È stato fatto sottoterra perché i nostri padri, che quando pure non c'era la sensibilità ecologica di sicurezza che c'è adesso, però 50 anni fa lo fecero per un altro acceleratore, già avendo in mente l'LHC, si dissero è meglio andare sottoterra perché così non ci sono problemi ambientali, di sicurezza, di qualcosa. In effetti, ad esempio, quando è successo, poi ne parleremo, il grande incidente nel 2008 dell'LHC, questo qua ci ha messo anche al riparo, all'abri, come dicono i francesi, da ogni critica, perché non solo per il personale, ma anche verso l'ambiente, verso... Cioè, si parlava però di una tragedia possibile, di una fine del mondo addirittura. Ma quella è stata la nostra più grande fortuna, il fatto che due scienziati ci abbiano citati in tribunale, un tedesco e un americano. Ci ha visitato in tribunale perché era una bufala, però grazie a questa bufala i giornalisti come voi si sono interessati. Il buco nero che avrebbe... Il buco nero, la fine del mondo, eccetera. Esatto. E quando ci fu l'incidente, la cosa più bella su un giornale svizzero, col pragmatismo svizzero, ha scritto il CERN tombe en panne, il CERN si è rotto, sì. È rotto, la fine del mondo è rimandata. Quindi rimandata a settembre, appunto. Appunto. Bene. Senti, tu da quanti anni lavori lì? Io da 15 anni, sono andato in congedo all'Università di Milano e nel 2001 sono stato chiamato per dirigere la costruzione dei magneti superconduttori dell'LHC. Paolo è stato e ha visto. Entriamo un po' nella spiegazione di quello che fai tu. Che cosa sono questi magneti superconduttori, a che cosa servono effettivamente? C'è un tunnel, dentro c'è questo acceleratore, l'acceleratore è fatto poi, è un tubo, sono dei tubi, sono rotondo tra l'altro. No? Rotondo, circolare, in realtà è fatto segmente, insomma circolare. In questo tubo viaggiano particelle. I protoni. Cosa sono i protoni? Sono il nucleo dell'idrogeno, che è l'elemento più semplice, quello di cui è fatto l'acqua. E quindi è nell'aria, eccetera. Solo protoni, e niente neutroni. Togliamo gli elettroni a questo atomo di idrogeno, togliamo gli elettroni e rimane il nucleo che si chiama protone, che è una carica positiva massiccia, e li acceleriamo. E lo accelerate. Vuoto. Acceleriamo come? Con dei campi elettrici, proprio la tensione, tipo quella che avete nelle spine, solo che quella che avete a casa vostra è 220 volt, qui parliamo di miliardi e miliardi di volt. Però concettualmente è un campo elettrico come quello generato dalle spine elettriche, diciamo, che c'è nei motori elettrici. Poi però ci vuole anche un campo magnetico per farli circolare le particelle, per farle andare in tondo, se no andrebbero diritte. Certo. E quindi per farle circolare e tenerle dentro ci vuole un campo magnetico che li tiene in orbita, un po' come la gravitazione del Sole attira la Terra e tiene in orbita la Terra, sì. Il campo magnetico tiene le particelle di Ginevra nell'LHC in orbita, e ci vogliono dei campi magnetici potenti, perché le particelle accelerate vanno forte, quindi esattamente come un'auto, tutti sappiamo che per girare e fare una curva su un'auto, se va più forte ci vuole più attrito, se certo. Se hai le gomme lisce vai diritto, via, certo. O se c'è l'acqua. Quindi per strada. I tuoi magneti tengono in strada i protoni mentre girano, perché questi protoni viaggiano alla velocità, quasi alla velocità praticamente della luce. Alla velocità della luce, 99.999996% dell'età della luce, viaggiano all'età della luce. Noi siamo abituati a pensare ai magneti come le calamite, giusto? Sì. Immagino sia un po' diversa la questione. Sì, nel senso che le calamite sono fatte di un materiale permanente, che appunto si chiama magnetite o diciamo così, vari materiali. E questi qua invece sono fatti con delle correnti elettriche. Noi tutti abbiamo l'idea che le calamite sono simili ai magneti con le correnti elettriche di un trasformatore, della bobina, dell'auto. Sono tutte, questa è stata una grande scoperta dell'Ottocento, quando si è capito che le correnti e le calamite erano lo stesso, due facce, lo stesso fenomeno. Genera un campo magnetico. Esatto. E questo qui, quindi, è stata una delle prime grandi unificazioni della fisica, aver unito i fenomeni elettrici con quelli magnetici. Infatti adesso si chiama elettromagnetismo. Certo. Comunque, questi magneti si basano proprio sulle correnti elettriche e su un fenomeno particolare che si chiama superconduttività. Se noi prendiamo i fili che abbiamo in casa, quelli di rame che ogni tanto quando si fa bricolage aggiustiamo, eccetera, lì la corrente passa, la corrente elettrica, ma si scaldano i fili. Tant'è vero che se una presa da 16 ampere cavi fuori 16 ampere, la spina senti al profilo, senti che certo. È caldo. Perché ha una resistenza elettrica. I superconduttori non hanno resistenza elettrica. Quindi è un materiale molto particolare. Molto particolare, che in cui può mandare migliaia, in un filo come quelli di casa, mandiamo migliaia di ampere, mentre in casa mandi 10 ampere, le spille sono 10 o 16 ampere, tipicamente. Qui invece mandiamo 1000 ampere, arriviamo a mandare 10.000-15.000 ampere, e in più non scaldi niente. L'unico prezzo da pagare è uno, importante è uno solo, bisogna tenerli freddi. Ma un super freddo, quando dico freddo intendo dire meno 271 gradi Celsius, meno di 2 gradi sopra lo zero assoluto. Quindi un freddo freddissimo è il prezzo da pagare. E come fai a creare questa cosa? Ci sono dei frigo speciali che chiamiamo liquefattori ad elio, liquido, a superfluido anzi, e diciamo, quindi sono dei oggetti molto speciali che a loro volta consumano, quindi in realtà non è vero che la superconduttività, come ho detto prima, non consuma per tenere freddo, ma una volta che hai freddo non scaldi. E come tutti sappiamo, in casa la luce, la nostra valvola della luce, dell'Enel o dell'AM, adesso A2A a Milano credo si chiami, non sì. Mi ricordo più i tempi, io sono via da 15 anni, i tempi cambiano. Comunque salta perché se accendi la lavatrice o se accendi il forno, cioè si consuma molto scaldare, non scatta mai la luce perché accendi il frigorifero, perché grazie a fortuna per noi raffreddare è un fenomeno che è poco dispendioso in termini energetici, è poco dispendioso e quindi si può farlo bene. Voi pensate, l'LHC, se non avessimo usato la superconduttività, avremmo dovuto fare una centrale nucleare, perché l'LHC senza superconduttività avrebbe consumato 1000 megawatt. Io sono piacentino, c'è la centrale di Corso che abbiamo mai utilizzato, ma insomma, però ci è costata. È lì, e tra l'altro avendolo utilizzata all'inizio, appena prima di Chernobyl, abbiamo pagato per 30 anni la manutenzione, quindi c'è stato una cifra. Lei in teoria poteva produrre 1000 megawatt. Ecco, avremmo dovuto avere una centrale nucleare di Corso per noi. Quindi una cifra enorme, un costo enorme. Mentre invece, grazie alla superconduttività, il costo della bolletta non è zero, che consumiamo 50 megawatt per tenere freddo. 50 megawatt è un ventesimo, è una piccola, piccola centrale termoelettrica. Perfetto. Insomma, come avete capito, prima di far scontrare queste particelle, ecco, infatti, c'è un gran bel lavoro. Perché questo protone ovviamente gira, ma poi si deve scontrare con un altro protone, giusto? Non basta accelerare, bisogna farli scontrare. Certo. Perché solo scontrandosi che si ricreano le condizioni con cui si va indietro nel tempo verso Big Bang. e si ricrea anche il bosone di Higgs, che non esiste, libero più da tanto tempo, dall'inizio del Big Bang. Allora, cosa vuol dire non esiste libero? Che cosa significa far scontrare delle particelle a quella velocità, a quella energia? Allora, intanto, perché scontrandoci cosa si fa? Noi prendiamo il protone. Il protone ha una certa massa. Piccolina. Piccolina. Il bosone di Higgs è 125 volte più pesante. Come facciamo a ricrearlo? Perché questo ce l'ha insegnato Einstein. Quando acceleriamo le particelle, che andiamo alla velocità della luce, quasi. Diciamo quasi, ma ci siamo veramente vicini, se noi acceleriamo ancora, cosa succede? Non si può, non acceleriamo in realtà se gli diamo energia, perché siamo già alla velocità della luce, non possiamo cambiare la velocità in pratica. Succede quel che c'è nella massa. Cambia la massa, bravissimo. Cambia la massa, gli do più massa. Il mio protone diventa, è come prendere una 500. All'inizio l'accelero, quindi va più forte, va alla velocità della luce. Continuo a schiacciare l'acceleratore e cosa succede? Diventa un camion. E poi diventa un camion in rimorchio, e poi diventa una nave, letteralmente. Pensate che il protone è come se aumentasse la sua massa di 7000 volte. In termini tecnici si dice aumenta la quantità di moto, ma lasciamo perdere. Certo. La quantità di moto, massa per velocità, la velocità è costante, diciamo che aumenta la massa. La massa 7000 volte, quindi la 500 è diventata un incrociatore, un'auto da una tonnellata a 7000 tonnellate, che è una buona nave di stazza media. Facendo scontrare due incrociatori saltano fuori dei pezzi molto più pesanti della 500 iniziale. Salta fuori dei pezzi come il bosone di Higgs, che sono molto più pesanti, che hanno molta più massa del protone iniziale. Questo è il meccanismo con cui andiamo verso Big Bang. Ma scusa, è una densità di energia piccolissima. Allora, se capisco bene, dopo il Big Bang le particelle fondamentali erano ancora più grosse di quelle che più pesanti. Più pesanti di quelle che abbiamo oggi in un atomo. Assolutamente. Se erano piccolissime, perché questa è la cosa che noi non riusciamo a capire. Perché la nostra esperienza è una cosa pesante, grossa, che ha molta massa e anche grossa. Esatto. No, lì la dimensione rimane piccola, ma si concentra la massa, l'inerzia, letteralmente. Certo. Letteralmente. Diciamo che le particelle che noi conosciamo, quelle che compongono il nostro mondo, i protoni, i neutroni e gli elettroni che compongono i nostri atomi, sono soltanto tre delle tante particelle che i fisici conoscono. Sono le particelle stabili, quelle che sono rimaste. Sono le particelle stabili. Quelle di cui voi andate a caccia sono quelle. Sono quelle stabili che esistevano all'inizio e che sono decadute dentro le particelle. Il bosone di Higgs, pensate, non può, vive, tenete, un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo. No way che si. Noi non, difatti non lo vediamo in maniera diretta, vive troppo poco per vedere in maniera diretta. Vediamo neanche i suoi figli. Ne vediamo neanche i suoi figli, vediamo i suoi nipoti. Lui decade in qualche cosa che a sua volta decade in qualche cosa d'altro, tipicamente. Quindi è incredibile, è una conoscenza molto indiretta. Per questo che è difficile, ci vogliono degli apparati complessi. Io direi che un brano ci può stare prima di chiedere a Lucio Rossi che cosa ci interessa in realtà di vederle queste particelle. Beh, insomma, tutto questo crea un'emozione. Sicuramente delle grandi emozioni. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. Per ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni, tu chiamale se vuoi emozioni. Emozioni, sì. Lucio Rossi è emozionato. Sì, sentendo questa canzone, un po' perché mi ricordo i miei tempi. Io sono rimasto fedele alle canzoni anni 60-70. Assolutamente, assolutamente. Però è il fatto che l'emozione è importante, anche nella scienza. Anche nella scienza è importante l'emozione. Non per niente mi hai chiesto all'inizio, eravate emozionati. Certo. Perché l'emozione vuol dire muoversi fuori, quindi vuol dire andare verso la realtà, quindi è una delle basi della scienza. L'emozione, l'attrattiva, è una delle basi della scienza. Noi tutti, la scienza è nata per un'emozione, per un'attrattiva che abbiamo visto. Il mondo ci attira, la bellezza del mondo ci attira e ci fa venire voglia di capire com'è fatto. Quindi... Tu come sei finito a fare il fisico? Beh, un percorso... penso abbastanza classico, diciamo riuscivo bene in matematica e fisica. Nel mio liceo di Piacenza, dove appunto ho fatto il liceo, c'era un insegnante di matematica e fisica che era una fisica, e quindi insegnava molto bene la fisica moderna, mi ha fatto appassionare. Ma avevo anche un bravissimo insegnante di filosofia, tutti e due li ho rincontrati dopo, quando mi è andato premio Piacenza anni fa, tutti e due sono grato, e ero molto incerto tra fisica e filosofia. Mi piaceva San Tommaso, mi piaceva il realismo, mi piaceva però anche l'esistenzialismo, Husserl, Heidegger, eccetera, e sono stato combattuto. Alla fine ho fatto fisica anche per un po' un calcolo, dicendo magari fisica faccio trovare lavoro, però insomma avrei fatto volentieri anche filosofia, non mi facevo spaventare. Alla fine ho fatto fisica e sono stato contento che ho continuato a poter fare un po' di filosofia facendo fisica. Ma un buon fisico deve essere anche un buon filosofo, io credo, no? Un buono scienziato deve essere anche un buon filosofo in qualche modo. Certo, non per niente ancora adesso il dottorato in America si chiama PhD, Philosophical Doctor, cioè infatti. Filosofia vuol dire amore del sapere, quindi in senso generico la filosofia fa parte di noi, non possiamo non porci delle questioni fondamentali, ma non si vive solo di economia, non si vive solo di euro, lasciatemelo dire da europeo che vive in un'organizzazione europea, non si vive solo di euro. Continui a frequentarla. E di spread, lasciamelo dire, non si vive solo di spread. Continui a frequentarla la filosofia. Un po' sì, con amici, leggendo, adesso sto leggendo un libro che, se vuoi, un po' di filosofia, una review dei grandi filosofi. Qual è il filosofo che ti, in cui ti identifichi di più? Ma, piacciono in tanti, tutti hanno portato qualcosa. Quello che mi identifico di più è Stamattano Dissi, che non è molto moderno, ma è, a parte Socrate, che un po' il padre della filosofia, direi che è proprio San Tommaso. Perché San Tommaso, San Tommaso è il filosofo della realtà, del realismo. Nel panorama del cristianesimo e tutto l'umanità è quello che ha scoperto. Sarebbe stato un buon fisico. Sarebbe stato un buon fisico, e soprattutto la valorizzazione di quello che c'è. Lui ha valorizzato anche il corpo, questo è poco noto, dicendo lo spirito ha la permanenza, però senza il corpo lo spirito non è quello che è, ed è il concetto proprio di incarnazione. Quindi secondo me lui ha posto le basi della scienza moderna. Secondo me la scienza moderna è nata in realtà nelle dispute tra domenicani e francescani, che per 200 anni ci sono allenati il cervello a discutere e a ragionare. Poi da lì è nato il fiore, che è simboleggiato in Galileo, ma è nato prima. La scienza non è nata con la scienza moderna, non è, l'osservazione scientifica c'è da sempre ovviamente, non è che dal mondo occidentale, però diciamo la scienza moderna è nata non con Galileo, ma Galileo ne è un po' il simbolo. È un po' il simbolo, chiaramente, perché ha fatto delle cose eccezionali, ha posto il metodo, eccetera. Quindi diciamo è nato con lui. Però in realtà è il fiore, è il frutto di 200-300 anni di allenamento e di conoscenze che già si accumulavano. A te piace più l'idea della dialettica, della discussione, del dibattito, come c'era tra i francescani e i domenicani? Sì, a me piace di più il dibattito che non il libro. Il libro rischia di essere, o il libro, o delle proposizioni, o la persona sola, rischia di essere un monologo. A me piace il dialogo, perché sono convinto anche che la verità ci si arriva nel dialogo, ma anche in scienza è molto importante. In scienza i dibattiti, noi spesso le cose, gli avanzamenti si fanno nelle conferenze dove ci sono i dibattiti, adesso per l'amor del cielo, senza volerci paragonare, ma i famosi dibattiti tra Bohr e Einstein sulla meccanica moderna hanno fatto avanzare la scienza. Gli esperimenti concettuali, che erano, se andate a vedere, molto simili a quello che facevano i francescani, i domenicani, quando facevano veramente dei ragionamenti per assurdo, hanno inventato proprio, sono molto molto simili, secondo me, e secondo me fanno avanzare la scienza. L'uomo è un animale sociale. Dicevamo prima di Battisti, che è stato lungo osteggiato, che era troppo personale. In realtà c'è l'aspetto dell'uomo, del personale, l'aspetto del sociale, sono ineliminabili. E lo stesso in scienza, c'è l'idea geniale della persona, si va avanti per idee geniali, Einstein è l'esempio tipico, ma si va avanti grazie anche alle grandi scuole, quindi sono i dibattiti, la scuola di Bohr o la scuola di Fermi, e sono gli altri due esempi tipici. Anzi, alla lunga sono le scuole le più produttive. Anche se Einstein è il più grande di tutti, ha fatto tante scoperte che li mette tutti nel sacco, eccetera. Però lui come persona ha lasciato poco, non ha lasciato una scuola dietro. Bohr ha lasciato una scuola, Fermi ha lasciato una scuola, che eventualmente ha generato il CERN. Quindi vuol dire, questo qui bisogna dire, l'aspetto sociale, l'ho detto così, però secondo me è importante, non c'è solo il genio individuale della scienza. Senti, Lucio Rossi, allora, ritornando a Bomba, abbiamo capito, mi sembra, che pesante non vuol dire grande, giusto? E che più è pesante e prima decade una particella, è così? Sì, più ha massa, spesso prima decade, e decade in figli che a loro volta sono spesso decadono, fino a quando decadono in particelle che sono o stabili, sì, oppure che vivono abbastanza a lungo da poter essere misurate. Ecco. È possibile parlare di una tavola periodica, come dire, una tavola periodica delle particelle, esattamente come in chimica esiste una tavola periodica degli elementi? Sì, si chiama modello standard, la famosa tavola che si fa vedere ogni tanto con i 6 quark, i 6 leptoni. I leptoni sono delle particelle diverse dai quark, ma molto più leggeri in genere. Sì. E quindi, per esempio, gli elettroni. Per esempio gli elettroni, no, o i mitici neutrini, quelli che si diceva che andassero più veloci della luce e poi si sono rimessi in ordine, in riga. Poi ci sono le particelle che danno forza, le chiamiamo particelle forza, quelle che danno, come il fotone, la luce, oppure come i gluoni, colloni, sono quelli che tengono insieme i quark. Li chiamiamo gluoni perché dall'inglese glu, ma la traduzione giusta sarebbe collone, glu vuol dire colli. A casa nostra sarebbe collone. Collone, infatti non bisogna chiamarli così. Oppure i bosoni di Rubbia, quelli con cui Rubbia ha preso il premio Nobel, che sono i bosoni W0, i primi bosoni scoperti, e che quelli dovremmo chiamarli astenoni perché sono bosoni deboli. Ecco, ma per capire allora come è arrivato il Big Bang in realtà, no? Cioè cosa ci manca ancora per giustificare perfettamente la teoria del Big Bang? Beh, ci manca tanto. La teoria del Big Bang ci dice come noi dell'universo descriviamo come è voluto, non diciamo perché se c'è stato un atto creatore o non c'è stato un atto creatore. Questo non fa parte della fisica, secondo me, fa parte di un altro insieme di bagagli e conoscenze a cui ciascuno gioca la sua libertà. Sì, molto però, più vicino alla filosofia, come si dice. Molto più vicino alla filosofia, o chiamiamola religione, o chiamiamola filosofia, secondo me è la cosa giusta, però in cui c'è un aspetto di libertà. Nella scienza, in un certo senso, c'è l'aspetto di genialità, c'è l'aspetto di libertà, ma nel senso per arrivare, una volta arrivata ad appurare che la mela cade, certo, secondo una certa legge, è quella. Così. È così, perché sennò non è scienza, sennò appunto è filosofia. E quindi ma la fisica descrive molto bene i fenomeni, non dice perché c'è un fenomeno in senso stretto, perché c'è il mondo anziché niente, la famosa frase perché c'è qualcosa anziché il nulla. Questa qua nessuno ti potrà rispondere, che anche la cosa bella, lasciatemi dire, perché questa è la domanda fondamentale, perché se io con uno scienziato con l'S minuscola devo avere più armi a rispondere a questa domanda di mia madre che non ha studiato? Il tratto dell'umano è che tutti devono essere ad armi pari a rispondere a domande fondamentali. Perché apprezzare una bellezza, certo, o voler, certo, bene una persona, non c'è risposta. Te la devi trovare tu, e io ho tante probabilità di mia madre di dare la risposta. Cioè, che è giusto, che penso sia è la democrazia dell'umanità. Tu sei credente? Personalmente sì. Personalmente sì, per riesci educazione. Riesci a conciliare comunque, sì, in qualche, diciamo, modo religione e scienza? Allora, bisogna anche stare attenti. Non sono conciliabili nel senso che viaggiano anche su piani diversi. Cioè, ripeto, che la mela cade va bene per un cristiano, per un buddista, per un musulmano, eccetera. Questo è il vantaggio della scienza. Però non dà alcune non dà le risposte perché voler bene una persona, perché comportarsi in un certo maniera per un'altra, o perché intimamente io esisto, avrò una fine, eccetera. Domande che tutti ci portiamo dentro: avrò una fine, tutto finisce con me. Quindi queste cose qui. Cioè, io lo possiamo mettere nel momento del Big Bang? Non possiamo. Io, come dico sempre ai miei amici credenti, che qualcuno è sempre tentato di dire il Big Bang è vero, lasciatemi usare l'anglicismo, si adatta molto bene all'idea di Dio creatore, ed è vero, tanto è vero che quando fu scoperta la cosa del Big Bang, non per niente il Big Bang fu un sacerdote gesuita che ebbe la prima idea, Lemaître, noto, a parte quello, molti scienziati, proprio dei scienziati, quelli famosi che erano invece convinti della creazione continua di materia, dissero no, come, Dio l'aveva messo fuori dalla porta e rientra dalla finestra, perché hanno capito subito che Big Bang. Però è sbagliato. Se Dio c'è, ha fatto il mondo. Magari il Big Bang non è un momento di generazione, è un momento di passaggio. C'era qualcosa prima, il Big Bang è una singolarità, ma veniamo da un'altra cosa. Non possiamo dirlo. Se Dio c'è, noi dobbiamo scoprire come il mondo è evoluto, ma non possiamo capire i venti. Secondo me è un atto di libertà credere a Dio o non credere a Dio, che è pure una fede, anche secondo me, presa seriamente è una fede. Avete notato che ormai molti pochi si dicono veramente atei convinti, perché è una posizione molto impegnativa. Ormai tutti si rifugiano in un ma non so, eccetera. Io invece sono convinto meglio dire agnostici. Agnostici, esatto. E quindi vabbè, però insomma, alla fine, quando vai a vedere, tutte le posizioni sono delle posizioni di fede, anche l'agnosticismo, nel senso che tu credi a qualcosa che non è dimostrato. Quindi alla fine, per me, la libertà è altrettanto importante della ragione nell'uomo, nell'umano, è altrettanto importante della ragione. L'importante è non tentare di applicare il metodo scientifico a queste questioni. L'importante è non invadere i campi, da un senso o nell'altro, io dico, perché forse la religione l'ha invaso per tanto tempo, adesso c'è anche un'esercizione. Io vivo nella Francia laica, dove il laicismo è diventata quasi una religione, secondo me, cioè cui devi assolutamente credere, e secondo me è anche sbagliato. Lasciamo libera la gente di pensare quel che vuole, poi se Dio c'è non ha bisogno di sostegni. Questo è sicuro. Andiamo ancora con un po' di musica, un'altra scelta di casa nostra, un'altra scelta italiana, Lucio Dalla, eccolo qua. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Allora, Lucio Rossi, Lucio Dalla, perché questa canzone di Lucio Dalla? Ci sono attaccato, mi è piaciuta fin da subito, è stato uno dei leitmotiv, come emozioni prima della mia vita, i due Luci, diciamo. Il nome Lucio non era molto diffuso quando io ero giovane, anzi era raro, e adesso con i due Luci nazionali è diventato, ce ne sono tanti di Lucio. Solo musica italiana? Ah sì, io amo la musica italiana, parlo inglese tutto il giorno, lasciatemi dire, cercando di valorizzare la nostra lingua e la nostra musica. Con la musica si veicola anche una cultura, quindi io sono un forte sostenitore della musica italiana. Anche, mi piace anche ascoltare quella del moderna, meno perché ho toccato i miei anni, ma cerchiamo di valorizzarla. Senti, torniamo un attimo al modello standard. Allora, tu ci hai detto che avete trovato che esiste un certo numero di particelle, le avete organizzate, ci sono i quark, ci sono i leptoni, ci sono i bosoni. Allora, perché era così importante trovare il bosone di Higgs? Perché tutte queste particelle hanno una proprietà fondamentale, che è la massa. Tant'è vero che a fisica quando si studia, il professore, la prima cosa che dice c'è lo spazio, il tempo, e poi la prima proprietà delle particelle è lo spazio e il tempo, un po' come lo scenario teatrale in cui si svolge la rappresentazione del mondo, e poi la prima particella è la massa. La massa è estremamente importante, cioè la prima quantità, prima ancora che la carica elettrica che viene in mente di una particella, e non sappiamo che cos'è. Non solo, non si capiva perché le particelle avessero, se sono tutte elementari, devono avere una massa simile. Invece, incredibilmente, hanno una massa enormemente diversa l'una dall'altra, ma enormemente diversa. È come dire che una zanzara e la balena sono lo stesso animale, cioè qualcosa che non tornava. E però 50 anni fa questo scienziato Higgs, ma anche altri, Brau, Tengler, in realtà anche altri tre che purtroppo tendono ad essere dimenticati dal grande pubblico, Gurelnik e altri due, hanno appunto capito, provato un'ipotesi del meccanismo che perché spiegava le particelle avessero una massa diversa, e soprattutto che cos'è la massa, chi dà la massa. Il bosone in realtà che dà la massa è un meccanismo, però che è rappresentato dal bosone, da questa particella. Ogni meccanismo ha la sua particella. Quindi la massa non è una proprietà intrinseca delle particelle. C'è un'altra particella che gli fornisce questa proprietà, come se fosse un colore che viene, aggiunto. Le particelle sono tutte massa zero di base. Quando sono state generate, create, sono tutte al momento zero. Del Big Bang, tutte massa zero. Il bosone di Higgs era libero per i fatti suoi e le particelle erano tutte di massa zero come i fotoni. oggi particelle a massa zero. Se fosse andata avanti così la storia, si sarebbero sparpagliate. Non ci saremmo. Avrebbero continuato a viaggiare all'infinito. E come mai nel momento in cui interagisce il bosone di Higgs con una particella da masse diverse? È un meccanismo un po' complesso, però si può fare delle analogie. E supponiamo che io entro, che so, in uno stadio di calcio, insomma, una piazza affollata, e uno giovane che non interagisce con le persone passa attraverso e va via veloce. Invece io che sono grosso cerco di correre, ma pum, urto contro uno, urto contro l'altro. In termini tecnici si dice interagisco, urtare, cioè che interagisco e quindi perdo velocità. Quindi, poiché la massa è un po' la resistenza ad acquistare velocità quando uno viene spinto, se anche uno mi spinge, io non accelero più di tanto, mi vede come una grande massa, mentre invece un giovane ragazzo che va come una lippa, come se sia dalle mie parti, che passando in mezzo, sgusciando tra uno e l'altro, non urta con nessuno, più lo si spinge e più acquista velocità, quindi sembra che abbia poca massa. Quindi in questa maniera. Questo vuol dire che nonostante non abbiano massa, le particelle l'acquistano. Sì, l'acquistano, d'accordo, ma però nel momento in cui non hanno massa hanno comunque differenziazione tra di loro, insomma, perché altrimenti non potremmo. Bravissimo, hai colto nel segno. Alla fine la differenza di massa viene come una differenza di potenzialità di interazione. Quindi in qualche maniera le particelle sono differenti, colto nel segno, e bisogna distinguerle da questo punto di vista. E noi non riusciamo ancora a dire perché. Interagiscono in modo diverso con il bosone di Higgs, però non sapete perché interagiscono in maniera diversa. Alla fine ogni domanda apre di... delle altre domande. Certo. E questo qui entriamo. No, io volevo chiederti una cosa. Voglio dire, ragionando da chimico, no? Possiamo dire che dall'idrogeno sostanzialmente sono nate poi dopo tutti gli altri atomi, no? Qui potremmo fare il discorso inverso, cioè dall'atomo più pesante poi si sono originati via via tutte le particelle più piccole. No, non credo che si può fare questa qui. Le particelle hanno una differenza intrinseca una dall'altra, non sono tutte originate una dall'altra, sono veramente le particelle le 12 particelle materia e le 24 particelle forza che conosciamo, sono tante tra l'altro, questi numeri sono enormi, uno dice possibile che sia il livello elementare, eppure questo è quello che vediamo, più il bosone di Higgs in realtà, quindi sono 25. Per ora sembra tutto elementare. Quello che tu dici è vero per le forze, in questo senso che noi pensiamo che ci sia stata all'inizio una forza unica, che poi si sia differenziata in gravità e le altre, poi in forza nucleare forte e le altre, e poi c'è stata l'ultima separazione tra forza debole, il nucleare debole, e forza elettromagnetica. E poi anche la forza elettromagnetica a certi livelli è separata tra forza elettrica e forza magnetica, sembrano due fenomeni diversi. Quindi dal punto di vista dell'unificazione sulle forze la vediamo, sulle particelle ancora non vediamo queste particelle venire da una specie di super particella iniziale, esatto, che lentamente si differenzia. Se vuoi la super particella iniziale è il Big Bang, se vuoi chiamarla così. Noi siamo arrivati a sintetizzare, cioè vuol dire a coagulare sostanzialmente due forze, no? Cioè abbiamo la forza a unire, sì, la forza elettromagnetica e la gravità. E poi la forza elettromagnetica con la forza nucleare debole, che chiamiamo ormai elettrodebole. Esatto, infatti. Che quindi è stata unificata. È stata unificata. Poi c'è la gravità. Poi c'è la forza nucleare forte, che vogliamo unificare, ma che ancora non è unificata, e c'è quella più vicina. Poi la gravità è molto per suo conto. Sì. E quella sarà veramente l'ultima unificazione, se si riesce a fare, ma dobbiamo andare veramente vicino al Big Bang. Perché il gravitone non è ancora stato trovato. Esatto, abbiamo scoperto le onde gravitazionali all'inizio dell'anno, di cose di cui eravamo già certissimi, perché quelle però l'hanno scoperte, l'hanno vista, diciamo. Ma il gravitone no, sarebbe bellissimo se nell'anno delle onde gravitazionali scoprissimo il gravitone, ma non credo, è una particella molto molto molto elusiva. Che cos'è il gravitone? È il granulo di energia delle onde gravitazionali, il granulo di energia della gamma. Come il fotone è il granulo di energia della luce, della forza elettromagnetica. Esatto. Così il gravitone sarebbe il granulo della come il bosone di Higgs, come potrebbe chiamare Higgsone, il bosone di Higgs è il granulo del campo di Brout-Engler di Higgs. Tutti i campi di forza, tutte le forze hanno in realtà un granulo di energia che sono le particelle forze, chiamiamo. Certo. Fotone è la più tipica. Qual è la frontiera attuale di un fisico delle particelle? Beh, io non sono un fisico delle particelle, che sono più un tecnologo che lavora, però il fisico delle particelle è capire il bosone di Higgs. È come diceva il mio conterraneo Guareschi, voi che siete giornalisti, un fatto è come un sacco, da solo non sta in piedi, se è vuoto non sta in piedi, un sacco per stare in piedi deve essere pieno. Cioè è come dire che un fatto non basta, bisogna spiegarlo, allora il bosone di Higgs in realtà si è visto che da solo non sta in piedi, è incredibile, spiega tante cose e non spiega se stesso. Perché ha questa massa? Allora, la teoria non dice perché, difatti era uno dei motivi, è stato difficile trovarlo perché non c'erano previsioni vere sulla massa dei bosoni di Higgs, è stato difficilissimo, quindi era come un po' cercare, c'erano delle indicazioni ovviamente, l'LHC è stato fatto per vederlo, ma coprì l'LHC. Era cercato, coprì, l'avete cercato alla cieca, insomma, la cieca, un po' dappertutto. Non esageriamo adesso, però, insomma, non esageriamo, però capisco. Allora, il problema è questo, che il bosone di Higgs ha bisogno a sua volta di una spiegazione, che come si dà la massa al bosone di Higgs? Sembra che il bosone di Higgs da solo non sia naturale, non si spieghi in modo naturale con questa massa, e quindi ha bisogno di altri meccanismi che lo stabilizzano, o quindi altre particelle, meccanismi alla fine si manifestano sotto forma di particelle, e quindi la frontiera vera è capire ormai quale si chiama fisica oltre modello standard, beyond standard model. Proprio... Quindi capire meglio le proprietà del bosone di Higgs, ma anche cercare nuove particelle che potrebbero essere, sì, nascoste. Abbiamo l'impressione che il bosone di Higgs sia un po'. Avete visto quel film, come si chiamava? Narnia. Uno c'era l'armadio magico, il bosone di Higgs è un po' come quell'armadio magico lì, ci può aprire un nuovo mondo. Stiamo vedendo dov'è la porta di questo armadio, ma ci deve essere, perché sappiamo che noi stiamo... abbiamo già due fenomeni importantissimi, materia oscura e energia oscura. Già questo, che non dimentichiamo, sono 95%. Questo ci porta intanto a capire l'importanza del lavoro che tu stai facendo al CERN, perché l'avventura non è finita, ci sono tutte queste cose da scoprire, queste cose da capire, e il contributo che tu, la tua squadra, il gruppo con cui lavori sta cercando di dare, qual è per arrivare a questi risultati? Di rendere ancora più potente LHC. Certo. Raccontaci come. L'LHC è una macchina che è costata, diciamo, sui 5 miliardi più rivelatori, eccetera, quindi 5 miliardi di euro. O di franchi svizzeri, adesso quasi uguale, quindi diciamo così, è una macchina che va spremuta, quindi in qualche parola trucchiamo la macchina, no? Prende la macchina e trucco, vuol dire in inglese, diciamo, facciamo un upgrade, facciamo un miglioramento decisivo, non delle piccole migliorie, un cambiamento di configurazione della macchina, che si chiama LHC ad alta luminosità. Perché ad alta luminosità? Perché se il bosone di Higgs è l'ago nel pagliaio e io voglio studiare bene gli aghi, ho bisogno di tanti pagliai, perché è molto raro il bosone di Higgs e tutte le altre particelle che troveremo. Quindi ho bisogno di creare tantissime collisioni, quindi come di generare tanta luce. Noi siamo come in una stanza che sì, abbiamo visto qualcosa, ma nella luce un po' fioca. Stiamo cercando di decuplicare la luce, la capacità di collisione della macchina, di fare collisioni, per avere molte più informazioni sugli eventi rari, che sono quelli interessanti. Purtroppo sono sempre quelli, come nella vita, le cose interessanti sono sempre quelle rare, difficili. Cioè, ovviamente, questi protoni che girano nell'acceleratore, che si scontrano, quando si scontrano un certo numero di volte. Voi cercate di farli scontrare molte più volte di quanto non succeda adesso. Questo, certo, è aumentare la luminosità. E per fare questo, come fate? Aumentate il numero di protoni che girano? Anche, raddoppieremo il numero di protoni che girano. Uh-huh. Raddoppieremo il numero di protoni che girano. Adesso in questo momento sono 30.000 miliardi di protoni che girano, circa. Lo raddoppieremo, però sono piccolissime, è il vuoto praticamente. Quindi, e li strizzate ancora di più. E poi in più li strizziamo, perché è come due nuvole che si scontrano contro l'altro. Okay. Le particelle è raro che si scontrano, quindi devi strizzarle al massimo per farle scontrare. Più sono vicine le particelle e più è facile che si scontrino. Più sono dense, più è facile che si scontrino. Più è facile che voi vediate tanti scontri e che quindi... come dicevi tu, come vedere tanti pagliai anziché uno solo, trovare tanti aghi in ciascuno di questi pagliai. E dopodiché però quello che vi aspettate è di trovare un ago diverso dagli altri, cioè una particella che ancora non sia stata vista. Se vedeste una particella che ancora non è stata vista, questa particella potrebbe assomigliare a quelle che stabilizzano il bosone di Higgs. O che compongono la materia oscura. Difatti, cos'è la materia oscura? La materia oscura è una materia che sappiamo che c'è da osservazioni astronomiche, perché sappiamo che altrimenti certe galassie, certe cose non starebbero insieme, letteralmente, che girano in maniera troppo verticosa. Massa. No, ci deve essere più massa di quella che vediamo. Sì, c'è troppa massa nell'universo rispetto a quella che vediamo. Rispetto a quella che vediamo, c'è molto più massa, 5 volte di più. Quindi per ogni particella, per ogni chilo che vediamo, ci sono 5 chili nascosti, enorme. 5 volte di più. Sappiamo che c'è anche da fenomeni di lente gravitazionale, deformazione, in poche parole, vediamo delle stelle spostate, quindi vuol dire che c'è una massa che ha spostato i raggi di luce, ma non vediamo quella massa che ha spostato i raggi di luce, che forma questi effetti di deformazione, eccetera. Quindi siamo praticamente sicuri che c'è, però sai, anche qui ci vuole un punto interrogativo. Non l'abbiamo visto, non sappiamo che cos'è, la chiamiamo oscura perché non sappiamo che cos'è. E perché non interagisce. Se troviamo le particelle che stabilizzano il bosone di Higgs, che sono previste dalla teoria, per esempio, che si chiama supersimmetria, sono previste veramente che ad ogni particella che conosciamo ce ne sia un'altra gemellata, diciamo così, che parla un'altra lingua, ma gemellata, se c'è questo, poiché la teoria prevede anche che siano tutte molto più pesanti delle particelle che conosciamo, che il gemello sia più pesante, è il candidato ideale per la materia oscura. E sarebbe bellissimo. Scusa la mia ignoranza, ma materia oscura e antimateria sono cose diverse. La antimateria la conosciamo, probabilmente tu nella tua famiglia l'hai usata, perché hai mai fatto un esame PET. Ecco, chiunque ha fatto un esame PET, diagnostica PET, ha usato l'antimateria. PET vuol dire positron emission tomography, quindi vuol dire una fotografia, una tomografia fatta a emissione di positroni, ma i positroni dobbiamo chiamarli antielettroni, sono antielettroni, sono antimateria. Perfetto. L'antimateria c'è, la sappiamo che c'è, è un altro problema, perché noi siamo fatti di materia anziché di antimateria, ma un altro problema. No, la materia oscura è materia addizionale che a sua volta avrà la sua antimateria. Cioè, esiste... Però la domanda di Roberto ha un senso, perché in effetti tra materia e antimateria c'è una perfetta sorta di simmetria, specularità e di simmetria. Quello di cui tu ci stai parlando è un'altra forma di simmetria, una supersimmetria che però dà origine, o meglio, può essere provata soltanto se vediamo che queste particelle supersimmetriche esistono. La simmetria tra materia e antimateria è come essere davanti a uno specchio. Però invece con la supersimmetria è come avere anche di lato un altro specchio, quindi avere lo specchio, due specchi a 90 gradi. Quindi hai da un lato una riflessione e dall'altro l'altra riflessione, dall'altra parte. Molte più particelle di quelle che conosciamo. Queste particelle supersimmetriche non interagiscono con la forza elettromagnetica, quindi con la luce, quindi non le possiamo vedere, e però costituiscono... No, interagiranno. Il problema è che interagiscono molto, molto debolmente. Molto debolmente. Come i neutrini. Non è che non interagiscono, ma sono piccolissime le interazioni. Però i neutrini non possiamo ancora vederli, quelli non li abbiamo ancora visti, che sono molto pesanti. Un mondo nascosto che sono particelle pesanti, non abbiamo ancora l'accesso. E che sarebbe anche in mezzo a noi, anche qui. Ah, sì. Beh, non in maniera stabile. È difficile da immaginare questa cosa, che la materia permea anche l'universo in cui noi viviamo, però no. Perché di queste particelle, quel che rimane sono cosiddetti neutralini. Anche queste sono decadute e sono tutti solo l'ultimo stato, che si chiama neutralino, che sarebbe lo stato più stabile, più leggero di queste particelle, ma che comunque è molto più pesante di quello che... Tu ti diverti, sì. Io mi diverto a fare gli apparati, devo dire la verità, io sono contentissimo che i fisici di particelle ci danno delle scuse per fare degli apparati, dei cacciaviti sempre più sofisticati. Io sono un po' quello del Lego. Inventano una teoria e tu dici ok, ve la provo. Io sono a mezza strada tra l'ingegneria e la fisica, faccio un po' da trade union, amo molto anche l'ingegneria, costruire, eccetera. Quindi... Senti, il neutrino a massa, ormai ne siamo certi di questo. Ne siamo certi, perché siamo certi che si trasmuta, è incredibile, il neutrino parte di un tipo, arriva di un altro, e quindi vuol dire che questo era previsto da una teoria, se faceva così vuol dire che è una massa molto piccola, non si riesce ancora a misurarla bene, si ha però un range, è leggerissimo, però è per quello che va quasi alla velocità della luce, perché ha pochissima massa, quindi, però ce l'ha. Va bene, allora abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, adesso andiamo a rilassarci con un po' di musica. Una canzone straordinaria che hai scelto, Lucio, perché veramente i Corvi sono un ricordo di quelle della nostra età, di sessantenni appunto, e la scelta tra l'altro è una scelta molto curiosa, perché e perché non provarci, che sembra proprio, come dire, una domanda che tu ti fai mentre lavori, è così? Esatto. Perché non provarci? Mi hanno detto che in fondo serve proprio a smaltire i casini che ho. Ho comprato uno spino, me lo sono fumato, non mi ha fatto un granché. All'inizio è così. E perché non provarci? Sono un po' rimbambito, sarà colpa del fumo. Mi ritrovo un po' giù. Mi ha hanno detto che un buco serve proprio a smaltire i casini che ho. Sto già meglio da un po', e perché non provarci? M'hanno detto che rende, faccio un salto a Milano, faccio il pieno e poi giù. Lì davanti alla scuola, nel locale alla moda, non ne ho quasi più. Quanta lira però, e perché non provarci? Con i soldi mi han detto che si compra un po' tutto, certo è proprio così. Mi hanno aperto le sbarre e mi han fatto persino un sorriso meschino. Sono di nuovo tra voi, e perché non provarci? Dal momento che il mondo impostato com'è ti regala soltanto miseria e viltà. Dal momento che un uomo quale sono stato io ritornava la sera totalmente imbranato, per avere creduto in qualcosa di sano, per avere seguito un istinto normale, per avere cercato un sistema di vita, per avere cacciato pensieri malsani e trovarsi la sera con un pugno di mosche e tanta pietà. E perché non provarci ad aprire una scatola chiusa di dentro, con le mille ragioni per fare così, e a scoprire elementi che reggono il mondo, per poi metterle a nudo e fare un confronto, e arrivare poi a dire alla fine del viaggio ma che schifo che è. E perché non provarci? Allora, sempre rimandati a settembre, ospite nostro questa sera è Lucio Rossi, fisico. E volevo chiederti una cosa, Lucio. Tu sei impegnato tantissimo appunto in questi tipi di lavori di ricerca, di miglioramento appunto dell'accelerazione di queste particelle. Ma quanto tempo hai per l'aggiornamento tu, visto che sei preso continuamente in queste cose? Diciamo, l'aggiornamento è gioco forza a farlo, altrimenti ti trovi fuori nel giro di 5 anni. È un problema, perché io spesso in realtà ormai non lavoro più, faccio lavorare gli altri. È uno dei problemi, hai toccato un punto giusto, e molto spesso è facile sedersi, dirige gli altri, uno scopre che in 10 anni è diventato ignorante, intanto i giovani vanno avanti, grazie al cielo, quindi vanno avanti, però appunto uno deve provarsi, appunto, dice la canzone, anche stare aggiornato, non solo provare a fare cose nuove, anche stare aggiornato, e la curiosità di sapere quello che fanno gli altri. Spesso quando si è ad un certo livello è facile diventare autoreferenziali, come si dice, non bisogna farlo, gli altri portano sempre qualcosa. Quindi. Anche perché a certi livelli è difficile informarsi, voglio dire, letteratura così, oltre la molte tua, le conferenze. È difficile trovarlo. Sì, però conferenze, noi facciamo molto dialogo, diciamo, conferenze, workshop, dialettica, presentazioni che vengono discusse, eccetera, lì è il vero aggiornamento. Okay. Poi c'è anche la lettura di articoli. Quindi, eccetera. È il senso dei congressi questo. È il vero senso dei congressi, sono un elemento sociale, che per me è molto importante, non c'è solo il colpo di genio individuale, è veramente un popolo che avanza, una comunità che avanza. L'altra cosa bella, appunto, legata a questo discorso della comunità che avanza tutta insieme, è il fatto che tu, come dicevi prima, sei riuscito ad avere l'approvazione definitiva per un progetto sul quale hai lavorato per molti anni, che durerà 10 anni da qui al 2026, ma tu tra 5 anni andrai in pensione e quindi non vedrai la fine di questo progetto. Hai fatto tutto questo lavoro per consegnarlo a qualcun altro, alle nuove generazioni. Il senso della vita, si fa tutto per i figli in un certo senso. Beh, si fa anche perché appunto la realtà è bella. Sì, loro, intanto faccio un mestiere bellissimo, cui dico sempre sono ben pagato per pagare un lavoro per cui pagherei io stesso per farlo. Però vuol dire, c'è anche l'aspetto di dire io ho finito l'LHC, l'ho costruito, non l'ho generato io, loro un giovane, anzi all'Università di Milano, eccetera. Quindi nella vita si dà e si prende, do volentieri, io ho ricevuto bevuto tanto, do volentieri. Lascio in consegna questo progetto, di cui devo ringraziare Fabiola Gianotti, che lei ha chiesto e ottenuto l'approvazione al Consiglio del CERN, mentre il presidente direttore, per buoni motivi, però aveva una certa differenza di strategia, lei, il primo atto che ha fatto la sua direzione generale, come direttrice generale del CERN, è stata chiedere e ottenere l'approvazione del progetto alla del Consiglio. Quindi adesso il progetto è sécurisé, come dicono i francesi, è al sicuro, c'è il budget. Quindi... A proposito di figli, i tuoi figli, peraltro, tutti e due hanno scelto fanno di fanno fisica senza spingerli, ma hanno fatto tutte e due fisica. Che ce devo fare? Cosa che succede? Vuol dire che il lavoro che fai, in effetti, si vede che ti piace e che trasmetti questa passione. Esatto. Senti, siamo proprio in chiusura. Andiamo un po' sul banale, abbiamo parlato di Corriere fino adesso. Cioè, hai tempo per le sciocchezze, cioè vuol dire per, non so, certo, per il calcio, per esempio. Non è una sciocchezza, come? Sono interista vita, lo dico senza pudore. Sono interista vita, ho portato anche Tronchetti Povera e ho addobbato un magnete dipolare, un magnete superiore in nero azzurro. Abbiamo fatto una foto l'anno che eravamo campioni del perché mondo. I magneti sono azzurri. Sono azzurri, quindi... io di Va bene, con questo mi dispiace molto che tu sia interista, perché io sono dall'altra faccia di Milano. Ma siamo cugini. Siamo cugini, va bene lo stesso. Grazie Lucio Rossi, è stata una serata magnifica. Grazie, l'ultima scelta musicale di Lucio Rossi, questa volta I Nomadi. Tra l'altro sveliamo anche questo. Questi qui sono tutti pezzi che Lucio Rossi porta con sé nei viaggi tra Milano e Ginevra, Ginevra e Milano, in un sacchettone di plastica in cui ha tutti i CD della sua vita e ce ne ha portati qui alcuni. Va bene, allora termina qui Rimandati a settembre. Roberto Caselli e Paolo Magliocco vi salutano, grazie ancora a Lucio Rossi. Grazie. Come un popolo sotto l'oppressione, come un asino sotto il bastone, come un bimbo sotto l'educazione, come uno schiavo sotto il padrone, così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero? Come il corpo sotto la morale, come il lavoro sotto il capitale, come il diverso sotto l'uguale, come l'imprevisto sotto il normale, così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero? Come Dio sotto la religione, come l'amo sotto la convenzione, come la realtà sotto l'illusione, come un mattone sotto la distruzione, così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero, ma chi lo dice che il fiore è nero? Così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero, ma chi lo dice che il fiore è nero?